75 62 75. Bobo is back. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il 90% dei nostri errori dovuti a volte inesperienza, a volte superficialità, se posso usare questo termine. Del resto, quando ci sono tanti giovani in campo bisogna avere pazienza, ma per l'ennesima volta è stata una grande risposta dal punto di vista caratteriale. Abbiamo avuto quei 10 minuti di sbandamento che non eravamo più una squadra, dopo c'è stata il ritorno dell'Italia. Gli episodi possono cambiare veramente l'inerzia di una partita, penso in questo caso l'errore mio ha cambiato l'inerzia, ha dato fiducia a loro, penso che anche nel secondo gol abbia fatto un nostro errore, sono veramente in confusione in 10 minuti, nel calcio può succedere, sono errori individuali che penalizzano la squadra, prendo le mie responsabilità e sono contento della vittoria finale e cerco di non fare più errori di questo genere. Importante per il gruppo, per il mister, per lo staff, per il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana. Siamo riusciti a recuperare bene nell'ultima mezz'ora con la Spagna, abbiamo fatto un bel primo tempo oggi, peccato per quei 10 minuti di appannamento del secondo, però siamo sulla strada giusta per quanto riguarda la cattiveria e riprendere le partite e stare sul pezzo. Dipende dalle opinioni, non so se sia condivisibile quella di Immobile. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Un'Italia che non è piaciuta a nessuno, non è piaciuta credo nemmeno a un italiano. Se a qualcuno di voi è piaciuta, ditemelo e ditemi anche quali sono gli stati, secondo voi, gli errori più gravi che ha commesso e che sta commettendo Gian Piero Ventura. Io saluto Pierluigi Pardo, che è in un luogo molto ameno. Sì, sono a Monte Carlo, che non è esattamente per me Ponza, preferisco Ponza, però è un bel posto, si sta molto bene. E poi c'è una cosa che ormai è diventata tradizione, qui c'è la 14ª edizione del Golden Foot, che è questa manifestazione dove ogni anno vengono premiati i migliori giocatori di attività e le leggende, e non si sa ancora chi vincerà, lo scopriremo domani sera. Però insomma, intanto sappiamo che domani viene De Boer, oggi c'erano Puyol, Deco, Deschamps, insomma è un appuntamento storia classico. Del calcio. Sì, uno spaccato di storia del calcio. Sono passati tutti qui veramente e le impronte sono sulla promenade di Monte Carlo. Certo, come molte altre, come quelle degli attori a Nizza. Paolo Condò, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Pier. Guarda che secondo me ha vinto Pier quest'anno, Come? Potrebbe aver vinto Pier quest'anno. Sì, il Golden Foot. Ho delle voci insider che mi dicono questo. Sì. Ah sì, hai degli insider che mi dicono che a sorpresa salirà a Pardo sorpresa, su quel palco. Sì. Beh, ci farebbe piacere, Altro che io salgo a presentare, già tipo la terza volta, però non sappiamo. Sono 10 nominati e niente, ho provato a chiedere. Senti, ma tuo favorito no, puoi tipo... dirlo o fai non può per il ruolo? No, non c'è un favorito, può essere Messi, può essere Buffon, può essere Cristiano Ronaldo, non si sa. Tecnicamente non si sa. Paolo non ci dice niente, insomma. Domani a quest'ora. Domani a quest'ora lo sa tutto il mondo. Paolo Condò, ti rivolgo le domande che ho rivolto ai nostri ascoltatori. Sì. Via WhatsApp, anche SMS 349-238-6666. L'Italia non è piaciuta nemmeno a un italiano, Ventura compreso, Immobile compreso, nonostante sia stato uno dei grandi protagonisti, è uno dei punti fermi ormai della nazionale di Ventura. Qual è stato ieri sera e quali sono gli errori che sta commettendo Ventura? Domandone. Beh, allora, l'errore di ieri sera, quello diciamo che ha portato a quei momenti molto difficili nel secondo tempo, è stato il fatto di avere schierato ai lati di Verratti, che secondo me non dovrebbe stare al centro ma dovrebbe stare sul centrodestra, perché così i suoi passaggi sbagliati, che ci sono quasi in ogni partita, risulterebbero molto meno pericolosi. Insomma, non puoi stare con due mezzali molto più portate all'inserimento che non alla copertura, come Bernardeschi e Bonaventura. Secondo me deve giocare uno di quei due, l'altro deve essere un centrocampista, certo, De Rossi, certo, certo, di contenimento. Ecco, certo, questo è stato l'errore, diciamo, tecnico di ieri sera. Più in generale di questo primo periodo di Ventura, ho la sensazione che Ventura sia un po'... Ventura, che io ritengo un bravo allenatore, che l'ho visto molte volte in Serie A fare degli ottimi lavori, non soltanto a Torino ma anche prima. Io per esempio me lo ricordo, la prima intervista che feci a Ventura fu a metà degli anni 90, quando era l'allenatore, ma non si poteva dire perché non aveva ancora il patentino, aveva Maroso che gli faceva da schermo a Venezia. Me lo ricordo vincere un turno di Coppa Italia contro la Juventus di Baggio, con una partita memorabile a Venezia che vinsero 4-3. Sì. Ecco, e lì lui giocava un football che all'epoca era molto simile a quello del Barcellona di Cruyff, con la difesa a 3 ma molto larga, non quella, la difesa a 3 dei tempi del Dream Team catalano. Certo, certo, certo, ecco, certo, ho chiaro. L'impressione che lui sia il primo a non essere convinto di poter fare bene in un incarico ultra impegnativo come e quello che questa, della nazionale. Sai che questa è un po' l'idea, cioè che si è calato un po' in panni non suoi. Guest star Giuseppe Cruciani. Ciao Paolo, ciao Giuseppe. Qui lasceremo un commento su... Cosa? Commento? Io non... Commento che commenti faccio? La nazionale di Ventura, no, che vuoi commentare? Commenta, brutta, chiedo un commento. Ancora usi queste frasi, Carlo? No, è venuta così. Chiedo un commento. Chiedo un'opinione, esorto Cruciani a dire la sua. No, ma non si dice più opinione. No. Ragazzi, destruttura, vabbè, ma avete già sfracicato, vabbè. Time out. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Hai vinto in trasferta perché mi devo sentire tradito? Assolutamente no. Io credo che Verratti non abbia fatto apposta a fare quella, allora perché mi devo sentire tradito? Assolutamente no, anzi, blackout avviene nel momento in cui avviene, è avvenuto nel blackout, c'era dentro anche Barzagli e Bonucci che sono giocatori di assoluta esperienza, quindi quando succede ne prendiamo atto. Allora io stavo contando i messaggi e sono 8 che invitano ad assegnare a Pardo il Golden Food. Sono ben 8, senza offesa, scrivono tutti. No, ma il Golden Food lo vinco quasi tutti i giorni, quindi va bene. Diciamo, però sì, potrebbe essere, ma allora... anche con Do è un maestro, competitivo, sono molto competitivo. Anche con Do. Cruciani no. E allora visto è magro come la fame, Cruciani, dai. Cruciani mamma e Zenta, Cruciani e Zenta sono invece poco interessati al cibo, Allora ragazzi, visto che prima mi avete rotto le scatole, io chiedo a Cruciani un commento sull'Italia di Ventura. Allora, io ho detto questo, ho esultato come un bambino al gol di Immobile, ma veramente come un bambino al 3-2. Non lo so perché la nazionale è una mia passione, perché forse è l'unica squadra per cui davvero faccio il tifo. Per cui questa è la premessa, e dunque non me ne frega niente di parlare, chiunque c'è faccio comunque il tifo, forse è nato per la nazionale. Come sai sono andato in incognito, non troppo in incognito, ma insomma a vedere il quarto di finale a Bordeaux mischiato ai tifosi italiani tra Italia e Germania, mentre Paolo era a Parigi in quello studio meraviglioso sulla Senna. Sì, confermo. Lungo la Senna. No, forse quel giorno eri a Bordeaux, dove eri? No, ero a Parigi. Allora, detto questo, il problema Ventura si pone sin dall'inizio per un motivo molto semplice, perché tutti gli allenatori della nazionale hanno avuto almeno una di queste tre caratteristiche, fra poco vi elenco. La prima caratteristica, essere stati allenatori di una grande squadra. Seconda caratteristica, venire dalla cantera degli allenatori italiani, ne abbiamo avuti parecchi, no? Berzot, Vicini, eccetera, eccetera. La terza caratteristica è essere stati magari un grande, dei grandi calciatori. È il caso per esempio di Donadoni, che secondo me aveva fatto anche bene in nazionale. E nessuna di queste tre caratteristiche è concentrata nella persona di Ventura, che sicuramente è un allenatore che ha il suo valore, eccetera, eccetera. Però si parte già male, secondo me. Si parte già male. Secondo te, fammi capire, secondo te l'allenatore è sbagliato? Non è che adesso sbagliato, sono passate tre partite, siamo in testa al girone, per cui non è che non si può dire nulla dal punto di vista, diciamo, lo dico come cosa iniziale, perché gli allenatori che hanno avuto fortuna hanno avuto queste tre caratteristiche qui. Ora mi diranno: non è il momento, non si poteva spendere, c'era solo questa soluzione, non lo so, però questo è un dato di partenza. Il secondo dato di partenza, che è allucinante, ma riguarda, secondo me, e prescinde dalla formazione, perché l'Italia anche con una formazione sbagliata la Macedonia la può battere tranquillamente, cioè il punto non è la formazione sbagliata di Ventura, il punto è, e rimanda a un discorso più ampio, che è che è allucinante vedere le qualificazioni mondiali. Cioè, per me le qualificazioni mondiali andrebbero abolite. Cioè, vi pare normale, e qui poi si può parlare anche della questione Milica, cioè vi pare normale che oggi, con tutti gli impegni, con i giocatori pagati, quello che sappiamo dalle grandi squadre, noi dobbiamo assistere a Italia-Macedonia? Ma per quale motivo al mondo? Cioè, ci sono alcune squadre che devono essere qualificate di diritto sulla base dei risultati, sulla base del palmarès, sulla base dei risultati dell'ultimo europeo, un po' come succede anche in altri sport. E questa è la prima cosa. Oppure arriviamo alle qualificazioni alla fine della stagione. Sì, per colpa di Blatter e di Infantino anche, abbiamo, oltre che la follia dei mondiali in Qatar, avete visto quello che è successo in questi giorni, nel ciclismo, abbiamo anche il fatto che molto probabilmente l'Europa ha in proporzione meno squadre del Centro America. Cioè l'Europa ha piazzato spesso 4 semifinaliste dei mondiali, e il Centro America non so quante qualificate, 3-4, e l'Europa una di meno quest'anno, e ne avrà sempre di meno per la follia, chiamiamola follia, ma ci sono dietro altri interessi, della FIFA. Ora io dico, ragazzi, ma prima ci si ribella a questa situazione, non è possibile vedere ancora mondiali magari senza l'Olanda, mondiali senza l'Italia, perché può succedere, mondiali senza altre squadre, e mondiali con che ne so, Cuba magari, o Giamaica, che per carità fanno colore, ma sempre Cuba e Giamaica sono, e le asiatiche non so quante qualificate hanno, per non parlare delle africane. Cioè, ma siamo alla follia, 5 qualificate dell'Asia e 13 dell'Europa. L'Europa ha spesso 4 semifinaliste, è successo, certo. Tre. Cioè, siamo a una roba che è veramente indecente. È vero, è un po' simile al discorso che invece riguarda Platini sulla Champions League. Adesso sappiamo, esatto, che esatto, uguale. Un anno e mezzo cambia la formula, ma noi viviamo questa follia di avere avuto, per esempio, quest'anno Valencia-Monaco e Roma-Porto, che sono comunque 4 squadre di un certo livello, e poi invece c'è il percorso quello per le campionesse nazionali dei paesi, tra virgolette, un po' più sfigati. Che portano appunto il Ludogorets e altre realtà. Quindi è un tipo di meccanismo, lo sappiamo, che viene fatto appunto per motivi strettamente politici, che Platini, il famoso principio, no? Un paese, una testa, un voto, e quindi significa che per accaparrarsi il consenso, ma da un certo punto di vista fa parte anche dell'evangelizzazione del football, questo ci può anche stare come ragionamento. L'evangelizzazione del football sembra tanta roba, Pierluigi. I mondiali sono la massima espressione calcistica mondiale. E quindi Paolo, che è stato agli europei, ha vissuto l'europeo in prima persona, sa benissimo che questa edizione degli europei è stata un'edizione fantastica per un motivo molto semplice, perché c'erano tutte, tranne l'Olanda, che ha attraversato un momento particolare, è arrivata addirittura terza nel girone, ma insomma e non ha una generazione, diciamo, all'altezza nemmeno per qualificarsi all'europeo probabilmente, e avrà grandi difficoltà anche al mondiale, ma c'erano veramente tutte le squadre. Ora, o si arriva alla follia di Infantino, altra follia di 48 squadre, oppure si ricomincia a dare un peso all'Europa, che è una roba che secondo me... Questi sono discorsi politici molto lontani, secondo per quello me, che riguarda Ventura, Giuseppe, ragazzi, per quello che riguarda Ventura, c'è sempre la solita cosa. È un allenatore che vuole fare giocare la nazionale. La nazionale non deve avere un gioco, la nazionale si deve basare su quella che è la risorsa italiana, che è la difesa, e purtroppo... La difesa che ha preso 5 gol in 3 partite, 2 delle quali... E Ventura li ha sempre presi gol nella sua carriera di allenatore. Paolo Condò, io vorrei sentire cosa ne pensi su questi due argomenti. Dico Luciani, sintetizzo, Ventura inadeguato, perché è quello che hai detto. Detto. Comunque, se vuoi metterla così, figurati, non mi tiro indietro. Ventura inadeguato, allora, a quei panni. Prima la fino in contrappasso della zanzara questa. Allora, possiamo dire che è inadeguato, Cruciani, può dire che è inadeguato. Cruciani, due punti, Ventura inadeguato. Lo possiamo dire. Ventura è inadeguato. Ventura non è capo. Possiamo dire, lo diciamo. Siamo al top. Che fai, per è inadeguato, l'ha detto, è inadeguato. Allora, io sono d'accordo con Giuseppe sul fatto che ci sono delle nazionali che dovrebbero essere qualificate di diritto sempre a tutti i tornei. Però siccome poi io odio le amichevoli ancora più delle qualificazioni, non le sopporto, andrebbe a finire che una nazionale non gioca mai, una nazionale di un grande paese non gioca mai se non nel mese del grande torneo. E quindi io ti dico, facciamo così, facciamo che devono fare le qualificazioni, ma facciamo le qualificazioni nel mese di giugno, tutte le partite della nazionale nel mese di giugno, così se c'è uno che si fa male, come è successo a Milik, a Montolivo, a Sergio Ramos, a altri giocatori in questo turno, ha tutta l'estate per recuperare e i club non patiscono tanto, però insomma facciamole giocare. E poi per quanto riguarda Ventura, abbiamo già dimenticato un retroscena molto importante della sua nomina. Chi è che ha deciso la nomina di Ventura? È stato Marcello Lippi, perché Marcello Lippi doveva essere il direttore generale delle nazionali e la sua scelta, lui presentò un dossier a Tavecchio, un dossier con tre o quattro nomi, c'era anche De Biasi, non mi ricordo quali erano gli altri allenatori, però lui in questo dossier fece presente che il candidato a suo parere più intelligente era più intelligente nominarlo, era Ventura. Ma che cosa, ovviamente non è che Lippi, se non fosse successa poi la storia dell'incompatibilità, la solita storia del figlio procuratore, non è che Lippi avrebbe fatto la formazione, però per tutti il CT, anche quelli debuttanti e che non hanno uno dei tre requisiti cui faceva riferimento Giuseppe, avere una figura come Marcello Lippi con la quale consigliarsi, a quale chiedere un parere, ma non soltanto dei pareri tecnici, anche come eventualmente anche a fare da parafulmine, Paolo. O eventualmente a fare da parafulmine, sarebbe stato utilissimo. Così, senza più la persona che l'ha scelto veramente e che gli poteva fare da consigliere / parafulmine, è chiaro che questi primi due mesi di Ventura è andato una volta di qua e una volta però, di là. Però scusami Paolo, tu hai ragione, sì. Però la cosa poteva funzionare, stiamo parlando ovviamente di una cosa che non può più essere, certo. nel caso in cui due persone, adesso al di là di Ventura e di Lippi, vanno d'accordo. Io non ho mai creduto ai dualismi. Sai che ci sono state delle epoche, delle fasi nella storia della nazionale italiana in cui ci sono stati due allenatori. Non mi pare di ricordare grandi trionfi. Per cui credo che la cosa può avere un senso, come dici tu, assolutamente, se però tra le due persone poi resta un accordo di ferro, perché è poi inevitabile. Vabbè, che Lippi, una chiara divisione ma dei non ruoli, ci può essere perché Lippi, perché no? Ma perché Lippi, poi ragazzi, perché è evidente che poi c'è comunque un parere sulla formazione, un parere su quel giocatore, un parere sull'altro giocatore, non è che quello sta sulle nuvole e si occupa solamente di filosofia, cioè si sarebbe occupato anche di formazione, anche di scelta dei giocatori, eccetera eccetera. Allora, finché c'è un accordo tra i due, va bene, finché le cose vanno per il verso giusto. Poi se si creano i minimi screzi, i dualismi sono sempre negativi. Allora ci fermiamo per la borsa. Saluto Paolo Condò, saluto Giuseppe Cruciani. Ciao Paolo, ti abbraccio. Deve andare a mangiare. Mi tengo per Luigi Pardo, Lorenzo da Verona, Alessandro da Milano sono già in linea. 800 24 00 24. Ci fermiamo un attimo. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Dinamo, let's go! Tutti convocati. Riprendiamo con le opinioni degli ascoltatori, che sono moltissimi. 800240024, numero verde. Dove ha sbagliato ieri e dove sta sbagliando Ventura? Pierluigi Pardo collegato con noi da Monte Carlo. Lorenzo da Verona, buongiorno. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Dica. Allora, se posso esprimere due considerazioni veloci, premetto che sono un estimatore di Ventura come tecnico, perché l'ho sempre seguito, l'abbiamo avuto anche qui a Verona, sì, con Hellas, nonostante una sciagurata retrocessione dalla B alla C. L'abbiamo molto molto apprezzato, l'ho sempre seguito dove è andato, perché è una persona anche di garbo, educata e di cultura. Su questo non c'è dubbio. Ritengo che le sue squadre, ma questo l'ha sempre detto lui, ecco la considerazione, lui ha sempre ripetuto ovunque andava che se veniva apprezzato per il materiale umano che aveva a disposizione, che le sue squadre giocavano al calcio, un calcio propositivo, un calcio soprattutto di natura offensiva, è perché il lavoro è quotidiano. Lui è un allenatore che lavora molto sul dettaglio nel quotidiano, ha la squadra sotto mano sempre. Allora sì, mi chiedo, questo in nazionale chiaramente non c'è, è ovvio. Quindi forse in questo momento, che bisogna comunque dargli un po' di tempo anche per assumere questo nuovo ruolo, teniamo presente che non è una persona, un allenatore che ha esperienza internazionale, perché ce l'ha avuta solo con il Torino parzialmente, ed è un po' poco ovviamente, però mi sembra che attualmente sia un po' in confusione, sì. Si è visto ieri. Obietto, Lorenzo, obietto che ci sono molti, tra gli ultimi allenatori della Nazionale, da Marcello Lippi, poi posso tornare indietro a Sacchi, posso arrivare all'ultimo, cioè Conte, tutta gente abituata a lavorare ogni giorno con la squadra, certo, e che anzi sentiva l'assenza del lavoro quotidiano con la squadra. Infatti lo stesso si diceva di Conte. Il fatto del lavoro quotidiano vale per tutti gli allenatori bravi. Gli allenatori bravi, quelli che noi reputiamo migliori, sono bravi perché mediamente li abbiamo visti vincere a livello di club, e quindi questo ragionamento vale per tutti. Lo si diceva anche di Antonio Conte, si diceva: ma sarà l'uomo giusto, lui che ha un martello, che ha la cultura del lavoro, 360 giorni di allenamento all'anno con la squadra tutti i giorni, riuscirà a fare la differenza anche in un periodo di tempo così breve, una volta al mese, appunto, in tre giorni di stage? E mi sembra che comunque abbia fatto bene, poi al netto degli episodi e dei rigori con la Germania. Quindi io credo francamente che, io però ribadisco, ve lo dicevo anche ieri, cioè l'anomalia era Conte. Il fatto di aver pescato un allenatore come Conte, cioè un allenatore top, che in quel momento aveva offerte di grandissimi club e che infatti poi è finito al Chelsea, e quella è stata l'anomalia. Mediamente le nazionali, non soltanto quella italiana, vanno su profili di tipo diverso, o certo, grandi vecchi tra virgolette. Capello ha allenato la nazionale inglese, ma dopo una carriera della quale aveva vinto tutto, per il fascino ovviamente che la nazionale inglese può avere, poi allenato anche la Russia, oppure allenatori che sono sulla cresta dell'onda vanno dei grandi club, non vanno nelle nazionali. Mourinho non allena le nazionali. Sì, ma siamo sempre al solito discorso, quindi Ventura è come Donadoni, cioè voglio dire, come caratura, come categoria, è nel gruppo di Donadoni, nel gruppo di Prandelli, di altri allenatori che hanno allenato questa vedi, nazionale. Vedi Pierluigi, anche Gianni De Biasi, che è collegato con noi, saluto e ringrazio. Eccolo. Ciao Gianni. Ehi, ciao ragazzi, ma io in che categoria sono, scusa? Categoria scartati? No, tu non sei fra gli scartati. Fra l'altro prima con Dossi parlava della short list fatta da Lippi, e c'eri anche tu lì dentro. E questo, no? Lo sappiamo, ce l'hai detto, l'hai confessato pubblicamente, lo sa tutta Italia. Mancava solo che me lo dicesse anche il Presidente quel giorno lì, in aeroporto. In aeroporto, esatto. Esatto. Esatto, Gianni, anche tu sei stato abituato a lavorare ogni giorno, cioè sei un allenatore che viene dai club, sei stato abituato a lavorare ogni giorno con la squadra, a imprimere certi concetti, a imprimere un certo gioco, ad avere un contatto quotidiano anche con i giocatori, anche personale. È così difficile riciclarsi? Carlo, allora, io quando ho scelto di venire in Albania ne avevo parlato con Pierluigi, non mi ricordo dove eravamo in una trasferta, credo a Praga, di sicuro a pranzo a cena. No, eravamo sul taxi e gli è squillato il telefono, vero? Perché io porto anche molto culo, lo voglio dire agli ascoltatori, posso essere anche noleggiato presso i modici perché porto molto culo. E quindi quella chiamata arrivò e stavamo insieme sul taxi, credo a Bratislava, credo di sì. Bratislava poteva essere, sì, che andavamo a vedere Roma Bratislava, credo sì, quella partita. Cosa posso dirvi? Non lo so, il problema di fondo è che secondo me il campo ti può mancare quando hai una certa età, poi le cose si possono fare in spazi dilatati, ma il lavoro si deve fare sempre in maniera ottimale, cercando di sfruttare il poco tempo che hai a disposizione, cercando di portare quelle che sono le tue idee di gioco e cercando di dare però un gioco a una squadra. È più facile farlo con squadre che hanno magari un blocco del Real Madrid e un blocco del Barcellona o qualche giocatore del Manchester City, del Chelsea o dell'Atletico di Madrid. Se tu hai dei giocatori invece che giocano a Colonia, qualcuno che non gioca in Germania, qualcun altro che non gioca da qualche altra parte, diventa un po' più difficile. E allora uno deve cercare di capire anche, però la cosa non interessa a nessuno, quanto, come uno lavora. E il peso del lavoro che uno fa non è solo per il risultato finale, è cercare di capire se da uno più uno riusciamo ogni tanto a fare due e mezzo. Sì, questo è il concetto. Sì, intanto ieri sera sei riuscito a fare quasi due e mezzo con la Spagna. Avete resistito? Sì, se non facevamo due regali noi difensivamente parlando, potevamo probabilmente fare qualcosa di importante. Noi non è che pensavamo di stravincere con la Spagna, pensavamo magari di beccarli ogni tanto scoperti, di ripartire. Non l'abbiamo mai fatto bene, purtroppo abbiamo difeso male e abbiamo dato a loro il primo gol al 55esimo e poi al 62esimo abbiamo compiuto la frittata difendendo malissimo dentro l'area di rigore, e quindi sono quelle situazioni che poi danno un sapore diverso a una partita. Noi al massimo con la Spagna, quando siamo bravissimi e non sbagliamo mai, facciamo 0-0, perché riusciamo a difendere. Che impressione ti ha fatto la Spagna? L'avevo vista già con l'Italia dominare in maniera assoluta per un'ora, poi alla fine rischiare anche di perdere la partita, non so perché il calcio è anche questo, però credo che per valore tecnico in assoluto, per esperienza internazionale, tra Italia e Spagna non ci sia confronto oggi. Però noi siamo sempre dei bravi maestri di complicare le cose agli altri e ogni tanto riusciamo a cavare dal buco qualcosa che nessuno poteva pensare. Sì, l'hai vista dominare contro l'Italia di Pierluigi. No, anche fuori dai denti, immagino che la corsa all'Albania per il secondo posto la faccia sull'Italia, insomma non ci offendiamo. Credo anch'io che i valori siano quelli, Spagna soprattutto, Italia e poi noi Israele, che possiamo dare qualche fastidio a qualcuno. Intanto hai visto dominare la Spagna contro l'Italia, anche perché l'Italia non sta convincendo proprio nessuno, credo neanche te, possiamo dirlo, no? Sì, però io credo che sia un fatto normale questo, perché Ventura non è che ha fatto 700 partite, ha fatto 3 partite con l'Italia, lasciamo stare le amichevoli, 3 partite che contano. Alla fine della fiera, come si dice a Milano, ha 7 punti e credo che non siano da buttare. È chiaro che lui si aspettava magari una squadra che poteva avere una sua identità delineata in questo momento, probabilmente non c'è ancora riuscito. Perché? Perché ci sono giocatori che hanno già un'esperienza diversa con altro allenatore, perché hanno passato ormai 1000 battaglie, però ha la sicurezza di avere giocatori che a livello internazionale giocano in competizioni importanti. Mi riferisco principalmente, che ne so, a Bonucci e a Barzagli, che per me sono straordinari, ma va bene anche il giocatore, anche non mi viene in mente il nome del giocatore del Milan, bravissimo difensore, che non mi ricordo adesso. Romagnoli, bravissimo, Romagnoli. Voglio dire, ma mancava Chiellini, Romagnoli bravissimo. Voglio dire, lui può contare su dei giocatori che hanno straordinarie qualità ed esperienza. Portiere indiscutibile, al di là dell'errore contro la Spagna, ma se uno sta a mettere in discussione Buffon, allora vuol dire che abbiamo ammazzato tutti. Però è chiaro che anche lui lì si trova di fronte a un astro nascente e a uno che sta per andare in parabola discendente. È normale che sia così per un fatto anagrafico. Buffon grandissimo, uomo straordinario, uomo spogliatore, tutto. Però poi c'è un Donnarumma che può dare grande soddisfazione a... Beh, quello è il futuro. Quello può essere il futuro. Gianni, ti ringrazio. Sì. Grazie a voi, sì. È stato un piacere. Ciao Pier. Ci sentiamo presto. Che andiamo al mondiale, dai. Vabbè, okay. Quando vuoi facciamo un giro in taxi insieme. Facciamo un giro in taxi a Tirana gratis, dai. Dai, dai, com'è? Okay, non l'ho mai visto. Okay. Ah, una bella esperienza, dai, ti diverti da matti. Sì, bene, confermo. Grazie Gianni De Biasi. Pierluigi, stai lì che parliamo con gli ascoltatori subito dopo. Yes. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tutti convocati. È un'eternità che Alessandro da Milano è in linea, io lo ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sarò impopolare, ma a me la nazionale è piaciuta. Davvero? Sì. Fa parte della sparuta riserva indiana, sarete in 5-6. Le è piaciuta ieri sera? A me piace in generale. Innanzitutto ritengo Ventura un tecnico intelligente, per bene, di buon senso. La nazionale è composta da giovani di ottima qualità e non dimentichiamo che con la Spagna dovevamo vincere, perché è vero sì che il primo tempo è tutto dominato, tutti questi passaggi, ma io francamente trovo il calcio della Spagna angosciante e noioso, continui passaggi ma stringi, ti rimporta, noi non abbiamo subiti, li abbiamo lasciati fare, nel momento in cui ci serviva la reazione l'abbiamo avuta e dovevamo vincere. Ma, perché all'ultimo insomma, erano le corde. Ma secondo me è andata bene con il pari e non mi sembra che la Spagna abbia dominato buona parte della partita, quindi capisco l'amore per l'azzurro, capisco l'amore per l'Italia, ci mancherebbe altro, però quella partita, a parte il fatto che l'1-1 non è un cattivo risultato, però quella partita siamo andati vicino a perderla e non ci sarebbe stato moltissimo da dire, Pardo. No, assolutamente, anche se quella partita sarà strana, perché in realtà l'ascoltatore ha anche delle ragioni, che la partita è stata imbarazzante dal punto di vista del senso di superiorità della Spagna e della nostra impotenza, però poi alla fine in questo strano meccanismo di gioco del calcio, fa quello che diceva prima il mister, no? Anche sulla nostra capacità comunque di trovare delle soluzioni, è stata una partita che paradossalmente potevamo anche vincere, nella quale addirittura possiamo recriminare per le espulsioni, sì. Della quale comunque gli spagnoli il gol l'hanno fatto su una incredibile papera di un portiere monumento come Buffon. Cioè, voglio dire, è abbastanza singolare quello che è successo l'altro giorno. A me ha ricordato molto, lo dicevo qualche giorno fa, quel Juve-Bayern dell'andata, che fu una partita dominata dai tedeschi per 60 minuti, nella quale poi la Juve riuscì a recuperare da 0-2 a 2-2, ovviamente mi riferisco all'andata, e rischiò addirittura di vincerla. Un po' quel tipo di sensazione lì, e l'auspicio ovviamente è che poi al ritorno possa succedere qualcosa di simile, non dal punto di vista del risultato ma dal punto di vista del gioco, perché la Juve a Monaco per 70 minuti ha dominato e al ritorno c'è stata nettamente più partita, anzi la Juve ha giocato molto meglio del Bayern, quindi sì. Adesso abbiamo questa situazione in effetti non drammatica, nel senso che comunque abbiamo la trasferta in Liechtenstein, dobbiamo ovviamente vincere e a quel punto no, di drammatico non c'è nulla, Pierluigi, siamo a tre partite, abbiamo fatto grosso modo i punti che era lecito aspettarsi. A quel punto te la devi giocare, secondo me te la devi giocare sull'Albania per avere la certezza del secondo posto. C'è grande preoccupazione per questi spareggi, è anche giusta, però insomma, se guardiamo la situazione dei gironi sono quasi tutti giocabilissimi, diciamocelo apertamente, per cui insomma se arriviamo a fare un playoff con la Scozia o con l'Irlanda del Nord, noi abbiamo delle possibilità di passare il turno. Certo, se poi stai a casa, merito è colpa tua, e quindi non c'è niente da dire. Allora, c'è Igli Cometare, stesso nome, sì. Dalla provincia, buongiorno. Di Forlì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io penso che sia sbagliato il modulo dell'Italia. Cioè non va più bene il 3-5-2. Cioè è inutile insistere con lo stesso modulo. Non ha senso. Anche perché cambia allenatore. Le faccio una domanda: modulo o interpreti? Cioè, per me il modulo più giusto è il 4-3-3. Con Belotti in mezzo, Immobile a sinistra e De a destra. E in mezzo ci metti Verratti, Candreva e uno tra Marchisio quando recupera e. Sì. Questo, guardi Igli, questo, difesa, secondo me questo verrà con il sì, in difesa. In difesa si metti Bonucci e Romagnoli in mezzo. Secondo me è un'ottima coppia. E poi devi trovare due laterali. Ma sì, non va più bene la difesa non la toccherei. Allora, io posso le rispondo, poi sentiamo Pierluigi, ma secondo me questo è un è qualcosa che verrà con il tempo. Secondo me ben fa invece Ventura a seguire a provare quantomeno a seguire il solco di Conte con una squadra che lo conosce a memoria, con una squadra che sa come gestirsi. Secondo me sono stati sbagliati gli interpreti di ieri sera, perché ha ragione Paolo Condò quando dice che Bernardeschi e Bonaventura erano fuori ruolo e Verratti è stato lasciato lì da solo in mezzo. Ci vuole un giocatore alla De Rossi che faccia quel mestiere. Guarda, io penso che ieri veramente sono d'accordo con Paolo, l'errore principale è stato quello, cioè Trocatta l'ha messo malissimo, De Rossi secondo me deve giocare avanti la difesa con Verratti intermedio. Un pizzico di presunzione, Pier, secondo te, da parte di Ventura? Ma forse sì, anche la voglia, sai, la presunzione è anche la voglia di fare magari una partita finalmente libera dalle paure, visto che noi con la Spagna per 70 minuti siamo stati sotto schiaffo e poi invece abbiamo reagito nel finale, magari c'era la voglia sul campo di un avversario sicuramente inferiore a noi di imporre il nostro gioco con un centrocampo potenzialmente pieno di qualità, però sai, poi il calcio non è... qualche volta non è la somma algebrica, non è che se tu metti talento poi però le cose vanno per forza bene. Verratti ieri ha dimostrato secondo me un limite che non è ancora un regista alla Pirlo, ma è un giocatore però invece secondo me da intermedio a centrocampo che può far molto bene. Il discorso di Igli è interessante, il 4-3-3 potrebbe anche favorire Giorginio. Io sono dell'idea che noi abbiamo una squadra oggi in assoluto, il vero paradosso è che rischiamo di non andare al mondiale, questo sì, ma abbiamo una squadra secondo me in crescita, cioè oggi rispetto a un paio di anni fa il meccanismo, no, la freccetta secondo me sta ritornando verso l'alto, perché comunque risoluzioni ne abbiamo. Bisogna ovviamente che questa nuova serie di giocatori, questa nuova generazione cresca e maturi, sempre più classica Bernardeschi, sì, al quale adesso chiaro. Insomma si sta mettendo anche un po' di confusione tattica sto povero ragazzo, no? Abbiamo considerato un esterno, cioè chi lo vede trequartista, ma Conte, Ventura doveva non far altro che seguire il solco di Conte affidandosi alla vecchia guardia. Con, secondo me, nella formazione di ieri sera un pizzico di presunzione c'era. Poi hai ragione tu, voleva fare bella figura, voleva far dimenticare quei brutti 70 minuti contro la Spagna, però questo è stato il risultato. Pierluigi, ti saluto. Ciao, buon ciao, Golden ciao. Foot e Golden Food, mi raccomando, ci sentiamo domani. Grazie. Enrico, ciao. Enrico dalla provincia di Chieri ci aspetta, per favore, dopo il GR. A dopo. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Tutti convocati. Amico Rosberg, che affronta adesso l'ultima curva del Gran Premio del Giappone e per la prima volta in carriera vince il Gran Premio del Sollevante, ed è Sollevante come per lui sempre più leader del campionato mondiale, con Verstappen secondo a proteggersi in modo aggressivo su Lewis Hamilton, che non le ha mandate a dire. So, one in the land of the rising sun. Really good job, Nico. Really good job. Thanks a lot, guys. Amazing weekend, and congrats to the win on the constructors. La qualifica che contava, poi la partenza, è un po' tutto che conta, sì, no, sono contento, è andato veramente bene, sto weekend perfetto, ottimo, no, stupendo. Compagno, come ho detto, è sempre lui, sarà sempre una lotta, e lui andrà fortissimo sicuramente, proverà di tutto per tornare, e allora io continuo così, che guardo i weekend, e provo a vincere le gare, che questo mi sta andando molto bene. Caro Leo Turrini, quanto mi sei mancato! Come andiamo? Benissimo, tu? No, ero molto preoccupato, non ti sentivo più! Erano partiti i cani San Bernardo mandati da Pardo, che avevano al collo la fiaschetta di cognac, tutti a dire: dove è finito? Dove è finito? Ero in fila sull'Apero Cormano. Allora, a proposito dell'Apero Cormano, diamo subito notizie del traffico. Perché se per caso vi trovate alle sbarre per il pagamento, non avete il telepass, usate da qualunque carta di credito, e vedete qualcuno davanti a voi che mette la retro quando si alza la sbarra, quello è Lewis Hamilton, non preoccupatevi. Ormai non azzecca più una partenza, una cosa incredibile, un tre volte campione del mondo che sistematicamente si addormenta. Hai una ragione, eh? Io ho dei sospetti più che delle ragioni. Sospetti, allora andiamo con i sospetti. Sai come diceva un famoso dittatore che adesso non voglio evocare, vero? Mm-hmm. Il sospetto è l'anticamera della verità. Allora può anche essere che Hamilton abbia un po' ecceduto durante la pausa estiva, perché lo si era visto spaparanzato sui cuscini di mega yacht di qui, di là. A volte con Rihanna, poi si doveva incontrare con l'Interphone, e adesso infatti la sciatrice, guarda caso, lancia il suo libro, l'autobiografia, e si mette nuda in copertina. E io non so che cosa pensare, se non che appunto forse Hamilton si è concesso un po' troppo al jet set, da lì il jet lag, il passo è breve e mette la retro al via, e quindi abbiamo Rosberg vicinissimo al titolo. Vicinissimo, secondo Lauda, meno 33 non si recuperano più, salvo cataclismi, problemi meccanici, terremoti e inondazioni. Sì, a questo punto, effettivamente, come ha saggiamente notato il sempre arguto Nicky, solo una raffica di sventure che arrivassero ad abbattersi sulla crapa di Rosberg potrebbero impedire la consacrazione gridata del figlio d'arte, sì. Perché mancano quattro gare. Se vuoi ti faccio anche qualche calcolo aritmetico, perché sono fermo anch'io sulla Pero Cormano in questo momento. Sì? Sì, perché c'è questo nero a sbarra che parte all'indietro, alla retro, quindi siamo un po'. Gli bastano a Rosberg, anche nel caso di quattro vittorie di Hamilton, tre secondi posti e un terzo. La qualcosa considerata la differenza di valore tra la Mercedes e le scuderie concorrenti non è così difficile. Certo. Però era anche vero che chi avrebbe detto che la Macedonia trovata in vantaggio 2-1, perché guarda, io trovo qualche analogia tra la pessima domenica azzurra in Macedonia, nonostante la vittoria, e la pessima domenica rossa ieri a Suzuka. Allora adesso prendiamo le cose con la dovuta accortezza. Guarda, la Ferrari a Suzuka in realtà fino al sabato era stata paradossalmente la miglior rossa della stagione, perché sulla pista più difficile del campionato, nonché una delle più lunghe, un giro è quasi 1:40, il grande santo bevitore Raikkonen e Vettel con lui erano sì e no a 3 decimi da Rosberg. Quindi io vorrei in questo caso evocare un grande della fisica, eccetera, eccetera, eccetera, proclamare e pur si muove, hai capito? Nel senso che non è che proprio questa Ferrari c'è per il problema, qual è però? Che siamo a 4 Gran Premi dalla fine e ancora si scassa il cambio, vedi, macchina di Raikkonen, no? Cioè, certo. Questo francamente è deprimente, nel senso che avere ancora problemi di affidabilità dopo un'annata nella quale non hai toccato palla ti fa venire in mente il centrocampo di Ventura che mette Bernardeschi, come si chiama, quell'altro, Bonaventura, sì. Lì, no, è una roba che la Macedonia, numero 146 al mondo, ha avuto un quarto d'ora, amici sportivi, che Pardo avrebbe citato il Brasile di Garriccia, di Diva, Vappa e Zagallo, una cosa pazzesca, hai capito? E meno male! Senti, io ho un altro sospetto che viene lanciato da un ascoltatore, sai, l'anticamera del dubbio. E l'ascoltatore che non si firma scrive che Hamilton guarda il fondo schiena delle ombrelline e si deconcentra. Ma io non lo so, adesso è chiaro che ogni ipotesi è buona, eh. Qualunque poi, per carità, deve essere vagliata con la necessaria attenzione. Del resto, ripeto, io sono incredulo di fronte a questo Hamilton che non sa più partire, un po' come lo eravamo noi milioni di italiani ieri sera attaccati al televisore vedendo un tale lì, non so come si chiama, Nesterowski, che aveva delle movenze che tu dicevi, ma questo qui chi è Cruyff redivivo, hai capito? Sì. Insomma, io non lo so, sai che a proposito di dubbi ne ho uno molto acuto, posso esporlo, caro gente, ora che sei tornato? Certo, e sei fermo, sono qui apposta, sono qui apposta. Ma non è che c'è stato uno scambio di ruoli e che Ventura doveva fare il telecronista in Zaccheroni CT? Perché io sono stato anche aggredito da questa cosa, capito? Perché Zacca al microfono le azzeccava tutte le valutazioni, sì, devo dire. Perfetto, no? Perfetto, devo dire. Bravissimo, veramente. Guarda, mi fa piacere dirlo perché, oltre ad avere una grande storia come allenatore, eccetera, è una bella persona. Ventura, al quale io voglio un bene dell'anima perché siamo coetanei, mi ricordo che combattemmo insieme la battaglia contro Pirro, Red Nepiro. Sì, ricordo. Ansia di rinnovamento. L'ho letto su libri italiano. Di storia, sì. Sì, sì, io e Ventura eravamo là e vi parlo di qualche secolo fa. Quindi io gli voglio un bene dell'anima, però forse magari poteva essere il caso di mandarlo a fare il telecronista. Non lo so, dimmi tu, caro gente. Ma può essere anche un'idea che voglio condividere con gli ascoltatori. 80024 0024 è il solito numero verde. Leo Turini, ti chiedo ancora questo. Vettel sotto esame. Ma sono così felice di ritrovarti. Ma dove sei stato? Te l'hanno arrestato? Sì, in gatta buia. C'erano amici in giro, dicevano, ma forse è stato emesso un mandato di custodia cautelare per Getta, non c'è più. Però poi sono stato assolto. Ma Getta è un galantuomo, io lo conosco, metterei la mano sul fuoco per lui. Quindi, insomma, vabbè, a parte gli scherzi, sono contento di ritrovarti. Dimmi, cosa volevi sapere? No, questo Vettel messo sotto esame dalla Ferrari, mi sembra che dopo la storia d'amore dell'anno passato, condita anche dai cuoricini delle vittorie, dai messaggi d'amore verso il box, mi sembra un Vettel, guarda, ti posso dire in versione Alonso scazzato? Allora, guarda, io credo sinceramente questo. Seb attraversa legittimamente, vorrei precisare, periodo di profonda frustrazione perché lui all'inizio del campionato era convinto che avrebbe avuto una macchina capace di lottare ogni volta con la Mercedes. Quando ha compreso che non era così, come diciamo noi che abbiamo studiato, l'ha data su. No, gli è andata giù la catena. No, non l'ha data su perché guarda che certi errori che lui ha commesso in partenza, per esempio in Malesia 8 giorni fa, nascono proprio dalla grande personalità di un campione, perché Vettel è un campione, che non accetta la rassegnazione e tenta di inventarsi qualcosa per, insomma, strappare un risultato al di là di quelle che sono le risorse della vettura che guida. Quindi io non l'ho visto in negativo questo suo, diciamo così, atteggiamento che privilegia l'azzardo, sì. Per cui aggiungo un'altra cosa, veramente l'abbiamo visto anche sul Duco, ho detto prima, la pista più bella di tutte, la più impegnativa, quella della leggenda di Senna, Schumi, eccetera. L'ultimo problema della Ferrari sono i piloti, perché Vettel e Raikkonen non sono inferiori a Hamilton e Rosberg, e nemmeno lì al baby fenomeno Verstappen e Ricciardo. Verstapperino, cosa mi dici? Ti dico che è sempre lui, guida da predestinato. Anche ieri ci sono state polemiche alla fine, ma devo dire che la sua difesa, io non l'ho trovato tutti i regolamenti. Poi è chiaro che questo è il classico ceffo adolescente, ragazzino di enorme talento, al quale nessuno mai ha dato una sculacciata, perché se gli avessero insegnato un po' di educazione, sai, in Malesia ha detto Vettel è un idiota, no? Mm-hmm. Quando Lauda l'aveva criticato ha detto Lauda deve andare in manicomio. Sì, hai 18 anni e qualche mese, fai, hai vinto bravo. Un premio, sei bravissimo, vincerai tanto, però penso che, come io rispetto Pardo, anche Verstappen possa rispettare Vettel, Raikkonen e tutti quelli che corrono insieme a lui. Ma ormai fa moda fare i fenomeni così, no? Cioè sbeffeggiare, fare i personaggi a tutti i costi. Però Verstappen, che io dico sempre, ha preso tutto dalla mamma, perché io c'ero già quando correva suo padre era un pittone, sì. Quindi il DNA della velocità deriva dalla madre. Però deve anche rendersi conto che fa un mestiere pericoloso e a volte esagerare con le provocazioni a 300 all'ora si rischia poi che trovi il collega che ti tira la ruotata e ti manda in curva. Quindi io auspico, proprio perché lo ammiro tantissimo, penso che in Formula 1 come talento ci vorrebbero più Verstappen, più piloti giovani di grande coraggio e grande ardimento, però proprio per questo dovrebbe anche ricordarsi sempre che non si va in pista da soli. Certamente, certamente. Lo vediamo anche per altri. No, che un po' di rispetto, puoi usare anche l'intelligenza, la sagacia, l'umorismo, eccetera, però un po' di rispetto ci vuole. Secondo me, da questo punto di vista, lui avrebbe la necessità che qualcuno vicino a lui, qualcuno di cui si fida, gli desse qualche consiglio giusto. Quelli della Red Bull, hai capito? Insomma, ecco, gli spiegassero che non è poi così conveniente volersi fare odiare da tutti gli avversari. Questo perché io, guarda, ti dico, sono convinto che se si chiudono in una stanza i 22 piloti di Formula 1 e spengono la luce, in 21 menano Verstappen. Questo esce come, ti ricordi il film quello su Niki Lauda, famosissimo? Bravo, lo menano in 21. Ne ha fatte di ogni in 2 anni di attività. Prima, quando non aveva la macchina, bisticciava con quelli delle retrovie, magari si vedeva meno in televisione. Da quando la Red Bull lo fa con i piloti della Ferrari, della Mercedes, se lo chiudono in una strada, gli altri 22 spengono la luce e buio, non si vede nulla. 5 minuti lo gonfiano e lui esce un po' pesto. Professor Turrini, la ringrazio, è come sempre un piacere. Tranquillo, sono qui a ricordo del suo ritorno. Julio Iglesias, se mi lasci non vale, canzone che io, insomma, allora avevo già 60 anni e quasi 40 anni fa, ma che ricordo con grande piacere, perché la mettevano nelle balere per noi pensionati dell'epoca, hai capito? Ti abbraccio, Leo, grazie. Un saluto, ciao. Torno agli ascoltatori, poi abbiamo un altro ospite, Prizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Volevo fare 3 considerazioni sempre su Ventura. La prima, che parte un po' dal discorso che faceva prima mi sa il signor Cruciani circa le figure allenatore, o grande giocatore o allenatore di grande squadra. Io penso che un allenatore come Ventura, messo ad allenare la nazionale, per lui rappresenti veramente un grande punto di arrivo, se vogliamo. Come dire, aver conquistato una posizione veramente importante per la carriera di un allenatore. Quindi non credo che si rischierà che se arriva un Chelsea, cioè dopo un anno, 2 anni, dopo il mondiale, molla di colpo, eccetera. Per cui vedo in Ventura, come dice Pardo, è un allenatore risolto, magari non ad altissimo livello, perché grandi squadre non le ha mai allenate. È vero anche che non ha una enorme esperienza internazionale, però ha una enorme esperienza come allenatore, come uomo di campo. Mia seconda, secondo me, è considerazione, è uno di quelli che insegna calcio. Io ho visto la partita di ieri, per me ha fatto bene a far giocare quegli altri giovani in modo tale che si sentano parte del gruppo, e da quella partita sono emerse tante lacune proprio di gioventù. Non so, mi viene in mente Romagnoli, che avrà fatto 7-8 sovrapposizioni con Sassone, tutte dall'interno, andando a intasare la linea di traiettoria di Sassone, oppure giocatori che passano la palla sempre indietro. ovviamente lui non si aspettava andasse a finire così, però terza considerazione, ha saputo leggere la partita, ha messo dentro le persone e l'ha vinta, gli hanno tolto anche un gol che era, sì, che era valido, come ha saputo leggere la partita leggere la partita con la Spagna e cambiare in corsa. Il problema è provare magari a non sbagliare all'inizio. Io penso si possa essere tutti d'accordo sul fatto che qualificazioni mondiali non amichevoli, era una formazione sbagliata a centrocampo, e su questo penso che nemmeno quelli della piccola riserva indiana che possono difendere oggi la partita di ieri sera dell'Italia possano obiettare. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti. Io vorrei solamente dire un paio di cosette. La prima, sono completamente d'accordo con quanto ha affermato Leo Turrini. Nonostante sia un ottimo giornalista dell'automobilismo, ha visto giusto e perfetto quello che riguarda la partita dell'Italia. A proposito di ruoli invertiti tra Zaccheroni e Ventura. Ma certo, guarda, innanzitutto io stimo tantissimo Ventura, perché io sono di Verona, l'ho visto allenare l'Hellas Verona, lo ha quasi salvato in una stagione disastrosa dalla Serie C, che poi dove è caduto, e quindi conosco il suo modo di lavorare, è un bravissimo allenatore, però quando si incaponisce non ne esce più. Bonaventura e l'altro fiorentino lì non erano Bernardeschi, assolutamente no, non capisco, su questo penso siamo tutti d'accordo. E non capisco poi una cosa: come mai non si ostini a non chiamare Jorginho? Jorginho è l'unico in questo momento giocatore che abbiamo in Italia che può ricoprire degnamente il ruolo di regista, dando le giuste geometrie al gioco. Io l'ho visto giocare a Verona, quello lì è un fenomeno nel vero senso della parola. Sono abbastanza d'accordo, soprattutto alla luce della stagione che ha disputato l'anno scorso. Infatti io sono rimasto sorpreso anche dall'esclusione di Jorginho dal roster dell'europeo, perché era un giocatore che poteva essere estremamente utile e che forse ha caratteristiche più alla Pirlo rispetto a Verratti. Vincenzo Pincolini non ha bisogno di presentazione, oggi è preparatore atletico dell'Under 19. Ciao Vincenzo. Ciao ragazzi, buona giornata. Oggi c'è materiale, sentivo. Oggi c'è tanto da dire. Sai, lo sport nazionale, sai qual è? No, e poi insomma è tutto sommato. Il tiro al CT, è vero. Senti Vincenzo, la notizia di cronaca è che Milik è stato operato da Roma, dal professor Mariani. Mariani ha detto 4-6 mesi. A Napoli sono più ottimisti, sperano di recuperarlo entro 3 mesi. Montolivo, quella come dicono a Milano, l'è dura. Montolivo si è fatto male in nazionale, anche lui gravemente al ginocchio. Esiste una connessione? C'è una ragione che non sia la sfiga a collegare questi tanti infortuni che vediamo non solo nella nazionale italiana? No, è un po' tanto che i problemi e i gridi d'allarme UEFA sono stati lanciati in UEFA, sono stati lanciati e dalla stessa UEFA che ha aperto le orecchie e dalle varie federazioni. Cioè, oggi leggendo la pagina della Gazzetta, giocatori che giocano 13 partite in 35 giorni chiaramente sono sotto stress. Ecco. Sì, soprattutto e magari in questo periodo dell'anno, no? Esatto, e quello che dico io poi, che io ogni tanto, sai, di queste cose ne parliamo da anni, cioè bisogna per forza creare dei periodi di scarico. Cioè, in tutte le grandi major professionistiche americane esistono dei momenti di pause che i giocatori devono per forza rispettarli, per ricaricarsi, per allenarsi, perché quando tu giochi sempre non ti alleni mai. E non è che l'allenamento c'è solo quello, per dire, calcistico, c'è anche una parte di allenamento che è di prevenzione, che è proprio per cercare di essere meno fragili, non più bravi a giocare al calcio. E questa parte della preparazione chiaramente scompare. Se poi ci mettiamo anche un problema che mi tocca da vicino, che i ragazzi vengono specializzati troppo presto, quindi i lavori generali spariscono in età fin troppo giovanile, è chiaro che noi siamo un po' meno protetti davanti a questi infortuni. questo tipo di problema, il fatto che si giochi molto, il fatto che sia sotto stress anche con viaggi, e poi soprattutto il fatto che chi giochi in nazionale ormai non si ferma più. Ed è quello, secondo me, la cosa soluzioni? Che dovrebbe farci ragionare. E soluzioni, ci vuole una pausa. Cioè, io dico, io sono per giocare tante partite in certi periodi dell'anno, però ci vuole una pausa. Tu pensa a quanto è grande la NBA, eppure c'ha delle pause lunghissime. Tutti gli sport sono riusciti a darsi delle pause, perché se vogliamo vedere, per dire, tante partite brutte, poi quello che ripeto, alla fine se ne accorgerà anche la TV, perché tante partite brutte sono come vedere tanti film brutti, certo, e alla fine interessano, certo, meno. Certo. Quindi secondo me, se anche alla fine, perché dice il calcio va verso la televisione, ormai è talmente logico che non ne parliamo più, però anche la TV o voi stessi avete bisogno di spettacoli, insomma, non di partite fatte così. Quindi si inventi qualcosa, però bisogna, secondo me, metterci mano, e tanto che parliamo di accorciare il campionato, che già sarebbe far qualcosa. Insomma, soluzioni strutturali, professore, che sono di là da venire, secondo me, soluzioni strutturali molto difficili da raggiungere. Vincenzo, ti ringrazio, a prestissimo. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao Vincenzo Pincolini. Chiudiamo così la trasmissione, ragazzi. Sì, è tempo. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzone in redazione. Ci sentiamo domani alle 14. Ciao. Fatto, dai. Spegni il bianco, il rosso o il verde? Dai, uno dei tre. Spegni.